Sasha, trovami in chiofono. Attento, GR7. Oh, filibustiere, ci sei? Sì, pipistrello, sono qua. Me lo immaginavo, Io sono qua intanto, e cos'è, come so. Ho la televisione, ho tutto, la mia poltroncina, lascio acceso. Se chiama qualcuno rispondo, sono paziente. Eia, no, per il messaggio dico. Beh, d'altronde così è. Io mi sono già messo il grembiule sotto lavare i piatti. Devo sgombrare un po' lì. Poi faccio la pasta. Aspetta che ascolto il messaggio. Così è. E capì? Attenta, CR7. Così è. Ce l'avvi. Così diventi. Dai, ascolta. No, sono io. Ho detto, così diventi tu mi. Vai a lavare i piatti, vai. Magari arrivarci. Magari. Attento, CR7, ci sei, cambio. È già un po' di giorni che Ronaldo non si fa sentire, grazie. Deve essere impegnato a fare altro. Giusto. Condivido in toto l'ultimo messaggio. Così. Vabbè, detto ciò, vado a fare il lavanderino, dai. Ciao, a dopo. Ehi, tanto già presto ancora, sono appena vesti. Io sono qua che guardo la TV. A frappè. Giulio. Acci. Lupi. Sono il lupo solitario. Lupo. Non ti comprendo. Come mai non mi comprendo? Non ti comprendo. Come sta? Come sta? Questo è quello che ieri ha chiesto il controllo, mi. E chi? Oh, qualcuno che stava attarando l'antenna. No, sono 9:30 qua. Ci metto un toledo, come tu sei? Certo che sono io. Aspetta, il microfono. Aiuto, metti a posto queste cagate, mamma mia, cazzo, come esci, boh. Cazzo, nervoso mi fa venire ogni volta, con chi si eco, con chi si drordi, metti un microfono come Cristiani. Tra cellulare qua, cellulare là, non sono riuscito a lavare un piatto, dai. Quindi sono assente, ciao. Ma ancora la vedi i piatti, sì? No, diciamo che sono ancora con lo smartphone in mano, non ho lavato un piatto, non ho fatto nulla. Allora, metti a parte il tuo smartphone e vai a metterti a posto la stanza. Se vuoi dire, avevo i mandroni che... Lava. Chi è? Io, aspetta, appena acceso, Le orecchie ti si devono accendere. Ora. Cosa hai detto? Aspetta, fammi regolare le cose. 2 minuti. Fammi regolare le cose. Ma che non si compareggia un microfono originale, ragazzi, invece sta affendi mettendo un microfono che non servono a niente. Aspetta, calmati. Che basta. Anzi, non la musica. sito del bisogno di Simona più che altro. Ok, adesso va bene. Tutto lì, a posto. Ma che ho bippi, non ne ho mai bucato. Una radio del genere è buono, ho bippi. Ascolta, il processore è scritto, eh? Sì, c'ho cioè questa versa. Forse come te, sta col bip. Avanti, ma c'è una cosa avvicinante. Staccato il bip. Non è meglio se sta bip con la radio. A che dai un bip? Ho detto, a quanto ce l'hai, Mickey Gaine? Neanche a me sta, c'ho il bip, la verità. Neanche a Ciccio, figurati tu. Quindi, figurati, è apposta. Il volume è addirittura a 1, figurati, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, se ne frega delle 2060, guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, questo è l'unico apparecchio che pompa un bel, la verità, aspetta un attimino, lo riabbasso perché sennò è troppo alto. E c'ho un volume a zero del baracchino che c'ho vicino, figurati tu, quindi amplifica quella cosa allucinante, va bene così, è a posto, secondo me è a posto, pensate che è quello che c'avevo io, quello che è stato rubato, hai capito di... l'apparecchio che ho recuperato, sì. Io si fa vedere con un pisquamo, stai usando 140 di marino e gli hai messo il saletta, e a me non mi piace, va bene, per te va bene, e a me non piace, non paragonare quel microfono con l'MC60 che è tutta un'altra guba, lascia perdere, parla di altro, ma non parlare di MC60 con queste radio, che non ce ne mette nessuno. Che non è oggi a provare i microfoni a fare. Quella radio non è come la tua, col 680 che avevi tu, e il Savelta sì, ma chi se non mi piace il brucio, aspetta che rispondo a te. Sto usando il Savelta, sto usando, hai capito? Sto usando il Savelta, mi ho messo quel microfono, non sto usando altro, quindi a un certo punto... Aspetta un telefono, Antonio. Sono qua, non so più fare. Sto usando il Savelta, quindi... secondo te, non posso, cioè, avere un microfono diverso, quindi va bene, il mic gain è alla C ed è giusto, quindi è a posto, secondo me va bene, perché io mi sto ascoltando e è perfetto, poi se qualcuno non piace, pazienza, devo dire, i collegamenti li ho fatti e a posto. Due, vabbè, la limitazione più che altro non posso sollevarla perché c'ho i cavi piccoli, quindi a un certo punto vabbè, però è perfetto, è veramente perfetto, allora, 11 watt in static, quindi va bene, sto ascoltando. Sì, è tutto il visore, è perfetto, andiamo a vedere, ciupi ciu, ciupi ciu, ciupi ciu, così, senza, c'è il processore, senza processore così, quindi la questione c'è. E quindi capisco, i collegamenti sono giusti, li ho fatto, e quello è a posto, ok, hola, hola, per un po' di cicata mi si è parlato tutto quanto io, se mi si è parlato. Ci fate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, questo è... microfono palmare del 6, è poco distante. Questo è allucinante. C'ho la camera a letto distante più di 6 metri. Meglio senza letto la vita, come dice io. Allora, passiamo in cosa. Piccoli, quindi a un certo punto non posso pompare con 140, quindi a un certo punto va bene. Non c'è di pompare, non c'è di pompare, non tirare a freddo, non c'è di pompare, non c'è di pompare. Quello che ti voglio dire io è che il signor Panta che ti ha volato io era già tirato sia di LC e tutto, quello è chiuso, perché modulazione non ne hai, anche se metti al massimo, tu ti ascolti in cuffie bene, ma io ti sento basso in radio, non sta spingendo come spingeva il tuo Corsa Delta, neanche a paragone. Mi dice che ho i 140, non sto usando i 180 a me, forse non hai capito niente. C'ho il 140, quello che mi è stato fregato, in teoria. Antonè, una cosa ti dico, o quando parlo mi ascolti, o se no sto chiudendo e non ci parlo. Ho capito che stai usando il 680, il 140 di Mario. Ti ho detto che quando avevi tu il 680, Corsa Delta, manco a paragone con questa radio, manco a paragone. Aspetta 2 minuti. Aspetta 2 secondi. Non ti stai parlando. Con Antonello, in Nova Radio, è in cuffi, perfetto, secondo me va bene, io non lo intendo. Tu la intendi? No, non è così. Ho gli ventilichia, attaccato al 140, non sa delta, va una radio che manca un baracchino, vi la usci. Secondo lui è perfetta, però non lo so. Come ha fatto a fare l'immediata? Chi, come gli ha fatto? Alimentazione esterna con la batteria, elimini gli 8 volts e ti prendi le connessioni che ti interessano, quindi 4 fili, ne ha 8, 2 down e up li metti da parte, l'alimentazione con la massa metti da parte e usi 4 fili PTT, ricezione, basta. Come stai collegando un microfono ormai ci vuole molta attenzione, ma lui già lo sa fare, se l'aveva già fatto. Però a me la radio non mi piace, proprio bassa, non sta spingendo niente. Certo, infatti non sta spingendo. Oh, claro, prima che ti ha detto per Presidente Lincoln è successo. Aspetta, un secondo. Ecco qua. Faccio solo questa vez, va bene sì o no? Ma fate tutto! Ho detto poco fa che non hai radio, non sta spingendo, c'è qualcosa che non va. Quando usavi tu il Sa Delta, con la tua radio, col 680, era fortissima, questa non sta spingendo nulla, non ti sento, sembri con un microfono normale. Ciao Giulio. Ciao Claudio, meno del normale, magari fosse un microfono normale. Ciao Franco. Ciao Giulio. Aspetta un attimino, scusa, adesso com'è? Va bene sì o no, sta spingendo o no? No, non ti sento del radio, hai radio 3, la vuoi capire che non ti sento Antonè? Se no te l'avrei detto, cazzo, boh, sembra che ti voglio prendere in giro, non stai uscendo bene. Sì, il bello che io mi ascolto e sta anche fischiando, no? Non so altro, quindi non lo so, aspetta, fate tutto. Sento addirittura anche il coso, sento il televisore, figurati tu, sto usando il salvezza mio in questo momento qui, quindi figurati tu, quindi secondo me sta spingendo parecchio, perché sennò non avrei fischiato a un certo punto. Vabbè, devi tenere conto che io l'altro giorno ho regolato che dice troppo forte, non so che cosa, per non lo va bene, eccetera, eccetera. Aspetta, regoliamo, in traffica. Oh, a me mi sta facendo incazzare. Stato giù. Beh, è regolato. In traffica, ecco qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La modulazione è cupa, più che altro, ma a me non mi piace. Neanche posso usare il microfono, adesso sì, vabbè, così. Se lo fischio con l'altro baracchino. Ora. Sono 5 watt che ho, no, non posso pompare di più perché c'è il cavo fine, capito? Non posso prendere il massimo, hai capito? Adesso bisogna che dopo metti i capelli rossi e facciamo le prove, tutto lì, però comunque la computazione è giusta. Antonio, io te lo dico una volta, poi non te lo dico più. Non c'entra niente, io non ti sto dicendo che il microfono non è il tuo, che non va bene, vuol dire che non va bene in quella radio, quel 140 ha qualche problema, non stai uscendo, non sta tirando, io ho il Mickey Gain a 1, cazzo, non mi fare parlare male, col processore inserito, ok, la radio sta tirando, sta andando, quella non sta andando, non sta andando, e non te tu ti ascolti con le cuffie, fischia, non fischia, io non ti sento, per me la radio è 3, sembra che stai usando un baracchino col microfono normale, e penso che non ci sono solo io che te lo possa dire, te lo dico anche gli altri, non lo so, Giulio riprendi e fai girare. Ho capito su quello che stai dicendo per tu, allora, non ci piove, hai capito? quindi volevo spegnere ma secondo io quello che ho io in questione come lo sentite boh e non c'è problema, hai capito? In questo punto che siamo a posto. Buonasera. Ciao Gianni. Ciao Gianni, riprendi Giulio. Ok. Vabbè, quel microfono, dai, che non va bene, buttalo via, dai, che non va bene, metti il microfono suo, che non sta uscendo. È inutile che insisti, insisti, se ti stanno dicendo che non va bene, non abbiamo motivo di dirti il contrario. Senti, Tina, avanti Franco. Ehi, siamo. Non arrivo per niente qua, non arrivo. Vedo un segnale, basta. Ma è la radio, non è il microfono, è proprio la radio che lui sta usando. Se ha qualche problema è chiusa, non lo so, non esce, non lo intendo, lo sento meglio col baracchino e il microfono normale che con quello, boh, non lo so. Infatti paragoni con le M60, che paragoni puoi fare con le M60? Se tu a quella radio le metti le M60, vedrai che esce bene. Con quel microfono, quella radio, attento, quella radio, sottolineo, quella radio, non quella che avevi tu prima, quella radio non va bene, vuol dire c'è qualche problema. Tanto gli hanno fatto poco ieri chissà radio, gli hanno fatto due di ieri. Forse c'è San Marco della Genere, vedrai che me l'avevo ripresa, tranquillo che me l'avevo ripresa. Avanti Gianni. Ehi, buonasera anche a Franco. In mezzo al QRM non riesco a sentirlo, comunque a sentirlo bene, buonasera. Anche io mi associo agli altri, la radio cioè è veramente... Non è udibile in poche parole, quindi rispetto a prima proprio completamente diversa, non so cosa sia successo, comunque anche io posso confermare che la radio non è assolutamente buona. Mamma mia Antonio, mamma mia. Giulio riprendi. Giulio. Ok. Ma cosa volete dire? Antonio, non va bene, dai. Così non si può fare queste togliere quella radio. Se non sei la radio, o mi scopo, o la radio, il fatto sta che non va bene. Togliere e mettere un'altra, molto ci vuole, caspita. Poi con più calma te la controlli. E non puoi continuare così, non va bene, dai. Avanti Franco. Forse Franco si è allontanato un attimino. Avanti Gianni. Eia. Buonasera. Ho sentito Marcolino poco fa che si è assentato a lavare i piatti. E niente, dai. Avanti, cra. Finalmente si è messo a fare qualcosa. Non so, dice che doveva, mi pare, lavare i piatti, stemarsi la stanza, fare qualcosa. Ok. Ma già in ascolto, già entra. Sono come tu lo gioco di tenne Giulio, ma se non mi capisce. Non va bene. C'è qualche altra cosa che non va bene. Bisogna controllare, bisogna vedere. Forse sia la radio, forse sia qualche problemino nel microfono, anche se era il suo, funzionava bene, ma cosa c'entra? Però lui sta riprovando ancora. Ma partite ci sono oggi Giulio, no? Domani sì, forse anche oggi sì, qualche partita da nazionale, cioè sì, domani gioco a Portogallo, domani voglio vedere Ronaldo, lo voglio vedere nel corso col Portogallo, vediamo un po' che cosa combina. Ma c'è anche Dybala allora? Non lo so se è stato convocato, non ho seguito questa convocazione, non li ho seguiti io quest'anno, non lo so cosa dire, ma credo che siano più o meno tutti convocati a quelli della Juve, pure di Mandzukic, Emre Can e un altro italiano, boh, non mi ricordo, ma tutti gli altri sono tutti convocati, boh, è inutile che facciano l'introduzione del campionato quando poi devono giocare in nazionale. Franco, sei rientrato? Sì, sono rientrato, sono qua, veramente ero qua, ho cambiato solo radio. ok, ho capito. Va bene, fa, dai, ripeto, fai girare il sergente, dai. Ehi, capo, avanti Gianni. Ehi, adesso ti ascolto un po' meglio, appena un po' meglio, è aumentato appena il segnale. Niente, volevo dire una cosa a Claudio, che ho visto che mi hai mandato quel PDF per l'autocostruzione dell'antenna, gli ho dato uno sguardo, e niente, adesso vedo di provare ad iniziare, insomma, a fare qualcosa. Prendo la palla al basso e volevo chiedere qualche altra dritta a Giulio sull'autocostruzione dell'antenna con la canna da pesca, se magari mi può consigliare se ha qualche altra dritta da darmi. Avanti Giulio. Ok, sì, ascolta, puoi fare così, puoi entrare in rete, poi ce l'hai il computer, rispondimi prima per quello, ce l'hai il computer. K. Allora, tu sento voi tutti i dati, per file per segno, ce n'è più di uno di sito, comunque tu scrivi queste esatte parole, scrivi sulla tastiera, costruzione, Gmail, no, GM, M finale, basta, è senza la E, GM, spiegazione, ecco, scrivi quelle tre parole e vedrai che, e fai quella, io ti consiglio di fare quella, perché ce ne sono altre, ce ne sono, di siti che ti danno consigli sull'antenna, però quella, io ho fatto quella e vedrai che funziona la grande, soprattutto per evitare il TVI eccetera, va benissimo, poi ti spiega il tutto per file per segno, non ci sono problemi. Capa, grazie. Claudio mi ha mandato qualcosa stamattina, ripeto, stavo leggendo, e niente, insomma, adesso giusto per avere un po' più di informazioni, così vediamo cosa riusciamo a tirare fuori. Comunque grazie per adesso, vabbè, il computer adesso è distante da me, quindi mi sono appuntato la cosa su un pezzo di carta, e dopo magari faccio un po' di ricerche e vediamo. Avanti Claudio. Scusa un attimo, adesso ti mando qualche appunto, così qualche fotografia su WhatsApp, e così già ci avrete tenere conto, dai, riprendi Claudio. Ma te l'ho detto, ne abbiamo parlato, infatti l'ho detto, quando senti a Giulio chiedi a Giulio, ti farà le info esatte per poterti già organizzare, poi ti ho mandato quello che mi ha mandato Franco, e così se hai qualche problema chiedi a lui e già metti di piedi, dai. Non è difficile farlo, vedrai, tutto il materiale è pronto e poi è una bellissima cosa quello, perché funziona bene. E ti ha la possibilità, la metti lì dove hai messo quella, perché sei 9 e 10 con quella lì, quindi ed è l'antenna di macchina, perciò sei molto aperto, capito? Quella è una bellissima antenna, se riesci a farla bene, come l'ha fatta Giulio, non ha stazionaria, è perfetta, va molto molto bene. Avanti Fra. Se riesce bene, come è uscita Giulio, arriva bene, arriva, perché è una bella antenna, con poco costo e c'è una bellissima antenna. Ma soprattutto c'è anche una buona zona, perché qua è 9.10 con l'antenna della macchina, figurati, poi arriva da te, anche se arriva a basso, sente bene tutti, quindi se mette quella sicuramente raddoppia sia la ricezione che la trasmissione, capito? Vai Giulio. Ok, certo. Claro, meglio va. 35 euro. Aspetta, spostati a 5. La canna da pesca da 7 metri, da Decathlon, 16 euro, costa. Però la punta poi si deve trovare, non la so pezzo lì. Ho la comprata da 8 metri, cioè, però una volta non c'era da 8, tutta la compra, da 7 metri eventualmente. Se metti il prezzo finale, aggiungi magari da 8 spettore di un'altra canna da pesca, perché il filo deve entrare dentro, se vuoi far entrare dentro, se vuoi mettere esterno va bene anche esterno, però io ti consiglio di metterlo dentro, così almeno, perché c'è il condensatore, c'è l'incidenza e dunque se ci sono i collegamenti è meglio che siano prontetti da 20 centimetri. Stavo dicendo, costa 16 euro la canna da pesca, ricordati che la canna da pesca deve essere una canna da pesca non conducibile, e cioè in poche parole non deve essere di carbonio, mi sono spiegato Gianni? Ho capito, non deve essere elettroconduttiva in sostanza, dai. proprio per una questione proprio elettrica e non solo. Bene Meda, sì, adesso piano piano mi metterò in moto e vediamo un po' cosa riesco a tirare fuori. Vabbè, le informazioni già altre informazioni già salteranno fuori. Sì, ieri ho dato una sbirciata così volante su qualche dritta che mi è stata data riguardo la Game Master, così chiamata. Ho visto qualche schemino elettrico, qualche dritta su qualche forum e niente, sto iniziando a spulciare un po' di roba e poi passo a passo vediamo come muoversi. Ok, appunto, vedrai che dal computer c'è tutto, perché ti spiegano per tutto, per fine, per segno, tutte le misure, tutto, tu fai esattamente come dice lì il computer, e vedrai che funziona bene, alla grande, senza rosso, non c'è niente, e funziona da 26 mega a 30, tranquillo, pacifico, va benissimo, e soprattutto almeno te ne togli anche il pensiero del corso, del tubulare, perché eventualmente sai, nel palazzo dove abiti magari si possono essere antenne TV, eccetera, mentre invece questa, guarda, la mia antenna è attaccata nemmeno a 2 metri da dove c'è l'antenna del baracchino, e va benissimo, per cui fidati che quella va bene. Estrapola tutti i dettagli e parla esattamente così. Lì ti dice addirittura di usare il cavo LG58. Allora io avevo usato l'H155, che è un cavo superiore come coso, che ha meno perdite. Da Fusaro c'era, adesso vedi un po' se c'è ancora, ma suppongo di sì. Però al limite va bene anche il coso, il cavo LG58. Però se c'è l'H155 va sempre meglio. Vabbè, dai, facciamo girare. Avanti Franco. Ecco, facciamo guardando io, quella che ho comprato io per il fiume. Un attimino che sto dando un controllo a Antonello, va bene, c'è scritto la lunghezza, però penso che sia intorno ai 7-8 metri. La canna a pezza, parlando della canna a pezza, sì, infatti l'antenna finita totale è 6,90 m, dunque con 7 metri deve andare bene per forza, solo che la punta finale è troppo sottile e il filo dentro non si passa. Allora io ve l'ho fatto uno spessore di un'altra canna vecchia che mi hanno dato un amico che va lui sempre a pescare e ne ha tante di queste canne e io l'ho sostituita con questa, tutto lì, con questa spessore, e dunque ho tolto il senso finale originale e ho messo questo che mi ha dato questo amico che è un po' più grossa e il filo è passato tranquillamente dentro. Che poi ho Gianni, quando togli il filo finale tu ne togli che no 2 cm, no, e lo fissi bene con la ferrovante, con quello che ti pare ti piace, perché se no essendo un filo in verticale se non è fissato scende, no? Se invece tu lo tieni tirato, teso, e poi te lo fissi in punta. Ok, Gianni? KK, sì Giulio. Stavo ascoltando attentamente, sì ho capito, bene o male mi sto facendo un'idea più chiara adesso di come è strutturata la cosa. Sì, ti ripeto, adesso nei prossimi giorni vedo di iniziare a combinare qualcosa. Comunque, più informazioni si beccano e meglio è. Va bene, dai, avanti Franco. In effetti la punta è molto molto sottile, però nella seconda punta si passa, l'RG58 passa benissimo, capito giù? Sì, no, ma nella punta finale non è che deve arrivare un filo normale, dalla metà dell'antenna è un filo normale da 2,5-3 mm, un filo elettrico, come normalissimo, un filo unipolare, dunque non arriva su il cavo coassiale non arriva su, arriva alla metà, fino alla metà arriva dell'antenna, poi c'è 3,5 m, 3,45 m mi sembra di filo ed è secondo malissimo, che da qui come se sono mattassine, anche da 5 metri si può comprare uno di quello, costerà siano 3 euro una mattassina di 5 metri, e dunque può utilizzare quello, da 2 e mezzo, da 3 eccetera eccetera, va bene, anche da 2 va bene sempre quello, anche da 1 e mezzo non è che non va bene, però diciamo che siamo messi da 2 e mezzo a 3 va ancora meglio. Avanti, Gianni. Riguardo al TVI, attualmente la mia antenna, l'antennino che ho piazzato è a 2 metri dalla mia antenna TV, anche col televisore acceso vedo che non succede niente, quindi TVI è assolutamente zero, quindi per il momento sono abbastanza tranquillo. Meglio. Ma con quell'altra, voglio dire, siccome andate a un dipolo, no? va bene, non ci sono problemi, ma funziona la villa. Io dico che funziona a parità di posizione di dove va installata, se la mando a turbo con quella, per conto mio, a parità di altezza e tutto, io dico che non c'è differenza tra la mantova che è quel di polo lì. Dunque va bene veramente. Avanti fra. Ehi, capo. Sì, guarda che te l'ho mandata, a vedere se è uguale a quella che hai comprato tu. Guarda a vedere. Niente, ma Claudio non c'è, avanti qua. Sta facendo le prove con Antonello, ha parlato di sovramodulazione. Con Antonello si è posato per fare le prove di quel pallone vecchio che sta usando Antonello. Avanti Gianni. Eia. Ogni giorno c'era una nuova. adesso non so cosa stava sperimentando, cioè mi fa sorridere, attenzione, senza nessuna cattiva, mi fa sorridere la situazione. È Claudio che rifasse rugabu umano, e ogni giorno ce n'è sempre una, ci è successo. Vabbè dai, il mondo è bello perché è vario. Avanti giù. Ok. Sì. Vedi, io adesso siamo andato. Intanto lo schermino siamo andato. Quello che poi troverai in rete lo troverai. E dunque, lì ci sono delle caratteristiche e tutto. Anzi, ci sono delle operazioni anche da effettuare, ma quello. Se tu usi un cavo differente, ad esempio il cavo che ha una velocità di trasmissione diversa dal 0,76, allora devi fare quella operazione lì, perché l'unica modifica che ho portato io è sul condensatore, che sarebbe un cavo da 9 cm per l'esattezza, non so il 9 l'altro per l'esattezza, è praticamente 9 picofarad, perché è 100 600 eccetera eccetera, lo dovrai moltiplicare anche che 0,70 come c'è scritto lì, tu lo dovrai modificare, cioè moltiplicare per 0,76, perché se usi il cavo H155 la velocità di trasmissione di quel cavo è di 0,66, perché quello che ha fatto quell'antenna ha usato l'RG58, un cavo che ha la velocità di trasmissione 0,70, dunque c'è una piccola differenza nella velocità di trasmissione, che poi magari va bene lo stesso, lì la misura, però tu falla con lo 0,66, moltiplichi quel numero che c'è, lo moltiplichi per 0,66 quando compri quel cavo lì, e lo fai la misura che ti dà, dovrebbe essere intorno ai 130 e qualcosa, dai, qualcosa del genere. Comunque, state rendendo conto poi quando vedi tutto al computer che ti spiega tutto per fine per te. Avanti fa. Ehi capo. Sì, vabbè, se magari gli dai le misure giuste, non dovrebbe essere difficile farla con le misure giuste. Infatti non è difficile, è facilissimo, è una stupidaggine, la può fare chiunque, guarda. che se qualcuno la rete sua si voltava che faceva le sue antenne senza fare lui, si può avere l'uso, l'aveva copiata anche lui dal computer, dalla cosa, anzi non è proprio esattamente quella, lui era un altro proprio, però le misure erano sempre copiate, perché c'era anche un altro sito dove c'era un certo Luna Rossa, non so di Lecce, forse di Lecce, che faceva queste antenne e li vendeva addirittura per tutta l'Italia, ne ha venduto diverse. E qualcuno qui le ha copiate e aveva la presunzione di farle lui, vantandosi che era l'antenna fatta progettata da lui. E li vendeva, ma non è andata male però, perché poi l'ho scamato. Vabbè, dai, avanti Gianni. Eia. Sì, dai, già sotto quel punto di vista internet già offre molte informazioni, quindi non ci sono problemi. Ti ripeto, io ieri ho fatto un controllo così molto, molto veloce e ho avuto modo già di trovare insomma diverse informazioni. Poi Claudio mi ha mandato un documento stamattina, quindi ho spulciato anche quello, molte informazioni coincidono, ti ripeto, adesso se riesco a, più che altro, se riesco a trovare anche qualche fotografia di riferimento, sai, di gente che ha già sperimentato cose del genere, già mi darebbe un'ulteriore mano. Comunque a livello di cavo già ti ho capito cosa vuoi dire, diciamo che l'H adesso non mi ricordo, la sigla ha una conducibilità maggiore, quindi va cambiato quel valore, quello l'ho capito benissimo. E niente, adesso aspettiamo, vediamo un po' di procurarci, iniziare a procurarci il materiale, poi vediamo cosa succede. Va bene, avanti Fra. Claudio non c'è, sta facendo le prove con Antonello. Allora, per fare una bobina devi utilizzare un tubo di scarico di plastica, quello che vendono da idraulici, no? Che di diametro per l'esattezza è 63 millimetri di ricordo, cioè 6,3 praticamente, no? Il disegno ti dice che vorrebbe 66 millimetri, 6,6, però se riesci a trovarlo di quella misura va bene, ma io ho utilizzato quello e va bene lo stesso, 63 millimetri, capito Gianni? Sarebbe meglio a farlo giusto, 66 millimetri, ma non lo so se si trova un tubo di plastica. Dunque, io vabbè, l'avevo fatto, ma l'avevo fatto in legno, l'avevo fatto. È un altro discorso, capito? Poi però ci ho ripensato, ho fatto con legno, col tempo magari, sai, in chiusi, eccetera, si può marcire, e allora ho utilizzato il tubo, quello rosso, è un tubo di scarico del fluviale, mi sembra che sia, o degli impianti un po' brusi, dai, e da idraulico, è un tubo, mi vendono anche a secca da un metro, mi vendono, perciò, ma costa una miseria, amico, rimane costa 2 euro, 2,50 euro, un tubo del genere. Poi invece all'inizio deve essere procurato un pezzo di tubo in vetroresina, deve essere procurato, e poi si va infilato un tubo di alluminio, un tubo di una trentina di centimetri di alluminio, quello serve per ancorarlo al palo poi, quando sarà il momento. Da tenere in considerazione che questo tubo di alluminio deve essere di quella misura, e poi inserito dentro il tubo di retroresina per poter appunto isolare e magari ho rinforzato anche con un bastone di legno dentro, così il retroresina rimane fuori il centro per il vento eccetera, ma quelle sono tutte cose che vedrai poi quando stai realizzando l'antenna, poi ti rendi conto come fare, non è un problema. Tieni presente che il TL deve essere attaccato alla bobina, non deve essere sotto più in basso dove c'è metallo, è quello importante, ok? ok? Vabbè, dai, poi già, ripeto, già, tu segui le istruzioni comunque di, dalla rete e vedrai che ti trovi bene. Allora ti fa. Ecco, beh, se c'è tutto scritto, tutto spiegato, è facile, sì, fare quell'antenna lì. Poi è leggera e non ha bisogno neanche di molta, molta altezza. Infatti non ha bisogno di niente, no, ma poi oscilla, sì, quando c'è vento oscilla molto, perché è sempre la canna fresca, per cui oscilla. Ciao, regge, regge, a voi che sta regge, grazie, alla grande. Vai Gianni. Ehi, bene Meda, bene Meda. Dai, dai, adesso vedremo, vedremo cosa succede. Grazie a Dio già, insomma, mi sono sempre arrangiato in questioni del genere, quindi non sarà la prima né l'ultima volta che mi metterò a smanettare con capi, cavetti, saldature, già l'ha giovato di cose, quindi non ci dovrebbero essere problemi. E niente, ti ripeto, adesso appena, magari dopo, con calma, inizio a spulciare e così mi scarico un po' di informazioni, mi faccio un piccolo archivio e niente, poi vediamo cosa succede, così almeno riesco a sentire e riesco anche a, insomma, a andare, insomma, a muovere più lontano in sostanza, dai, avanti giù. Ok, sì, no, è facilissimo, guarda, è più difficile se è anno che a farla, quando appunto lo stai facendo, e poi ripeto, al computer si c'era tutto, sentire il presegno, si dà delle luci, si dà tutto, anzi, quando anche le prove, guarda, si dice anche quanto si spende, e poi ti ringrazio anche per aver guardato il coso, tutto il filmato. Ebbene, sono rientrati quelli. Senta Dio. Ma quando sono i ventenni giù. Per carità. Va bene, dai. Sì. Se no, Antonio, fai una cosa. Ti prendi una di quelle che costano poco, ce ne sono da 60 euro, 50, senza radiali anche. Resta lì una di quelle. Ho fatto dei radiali, guarda, io non ho generato per quello, la faccio al tubo, proprio per i radiali, perché quando soffiava il vento la notte si sentiva molto, su quello del mirante. E ci ho provato, così scherzando, ci ho provato a fare quello, anche se, per adesso che senza presunzione, diciamo che io ho un'infarinatura anche dell'antenna, ce l'ho, in quanto ho fatto diversi anni l'antennista prima di fare falegname, io ero elettricista e facevo l'antennista anche nel contempo, per cui diciamo che ho infarinato tutto, pazzia che la vedi, di conseguenza non è facile, però è facile per chiunque, non ci sono problemi, basta che uno sappia leggere e ascoltare e risolve il problema. Avanti Gianni. Eia. Guarda, io in questo momento sto modulando con un baracchino veicolare degli anni 70, ci avrà 4 watt, 5 watt se li bacia, e già il fatto, insomma, che mi sento più uscendo, questo è ottimo, considera che dal baracchino all'antenna ci saranno 12 metri, esagerando 15 metri di capo, esagerando, e quindi senza, per il momento non ho comprato, quindi per il momento va più che bene, adesso quello che mi interessa spendere, insomma, il meno soldi possibile di migliorare quello che già esiste, insomma, quindi se riesco a sfruttare questi 4 watt o 5 watt che siano al meglio, è tanto di guadagnato, quindi va più che bene, non mi lamento, per adesso mi basta quello che ho, ok? Mi sembra che c'era Marcolino che ha bussato, avanti Marco. Marco, io non ti sento, sei per caso è bussato. E poi va, sto a Franco, non mi vuole, no? Praticamente, nella zona lì del Monte Basso. E sarà fatta subito, subito, immediatamente. Aspetta una miseria e in 448 sarà costruita. E come vedi, Franco esce benissimo, non bene, non benissimo. Considerando che pure l'antenna, lui c'è praticamente in facciata, ce l'ha, mi è attaccata, e dal tetto fuori esce pochissimo. E tu immagini se la dovesse mettere sul tetto, allora che cosa mi manderebbe come segnale? Un bel segnalone mi manderebbe. E poi tra l'altro c'è anche dalla parte forse negativa rispetto a me, l'antenna dove si attacca. È in una posizione un po', perché lui abita magari sotto, sopra c'è un altro piano, c'è nel palazzo, e questa antenna passa lì praticamente lungo il filo di stendere di quello di sopra. Tanto per dire una, no? Ma se la faccia subito, guarda, non ci è piegato nemmeno 3-4 giorni, nel senso che da quando glielo ho messo, si è preparato tutto, si è messo in un paio d'ore, si è fatto tutto, e va benissimo, rispettando sempre le misure, eccetera, perché ha fatto così e va bene. Vabbè, dai, avanti, Franco. Ecco. Capo, l'ho sentito modulare, arriva bene anche qua, arriva. Caspita, non pensavo che l'aveva fatta, poi quando l'ho sentito, è micidiale. Sì, no, l'ha fatta subito. Vabbè, Franco, l'ho pensato anche che è capace, evidentemente, non è stato una persona ignorante, una persona che è in gamba. Per cui si è messo subito perché ha capito al volo che effettivamente era da fare. Guarda, Gianni, davvero, se tu compri una cosa originale, si chiama Game Master, si chiama, no? Scritto Game Master, scritto, che si pronuncia Game Master, costa 170, 170, 175, dipende da dove la compri. Allora stai tranquillo che mai meno di 160. Dunque, vedi bene. L'ha studiata al computer, l'ha studiata, e dunque è fatta bene, è fatta da una segna, la signora è una segna, non è una qualunque. Avanti Gianni. Ehi, registrate il break, avanti, c'era un break, ho sentito un break, avanti. Giulio, hai sentito qualcosa? Magari fallo entrare tu. No, non sento nessuno io. C'è qualcuno che vuole entrare, avanti. Hai io che la porta è aperta qua, spalancata. Se vuoi entrare siamo qua. È inutile che fai il break magari quando sto parlando io, perché non ti sento, e non so se puoi subire anche me. Invece se tu aspetti un attimino, quando non sto parlando nessuno, fai il break e sei ben acceso. Così scambiamo anche due chiacchiere con te, se hai voglia, se no pazienza, grazie allo stesso. Avanti Franco. Io però nella zona di Gianni, di Antonello, è quella zona lì. Io ho lasciato anche Bianco, nessuno entra, evidentemente. Non lo so, vabbè dai, comunque. Noi siamo qua, se lui vuole entrare siamo qua. Per cui vedi bene, ma ti ho mandato già due messaggi, non mi hai detto niente, non ci sono ancora arrivati, eppure sono partiti, eh. Giulio, probabilmente forse non hai il mio numero di telefono. Comunque, per Franco, mentre hai fatto l'ultimo passaggio qualcuno ti ha modulato sopra. Hanno modulato sopra Franco? Non lo so. Avanti, c'è qualcuno che vuole entrare su questo canale? Brecco. Avanti Brecco. Buonasera a tutti Marco, sono entrato così perché sono in mezzo a pentole e pentolame. Sì, ogni tanto sotto Franco, sotto Giulio non si percepisce quasi, ma sotto Franco sento un segnalino come qualcuno che o sta provando da lontano o in barra mobile anche, non lo so. E l'ho sentito, l'ho notato anch'io. Ciao a tutti, vai Giulio, che sto cucinando. Ok Marco, ciao Marco. A meno che non è Eugenio che è in giro, lui lo sa in macchina, lui va sempre in giro e ogni tanto ha quel tizio di schiacciare pensare quando va all'inverdato e stanno parlando. Sei tu, Eugenio, avanti e rispondi, mettiti sulla nave, te l'ho detto l'altro giorno, mettiti sulla nave, che la nave è alta e così ci sentiamo bene, se sei tu. Vediamo un po', 5 secondi di bianco. Sto uscendo? Allora, ha detto sto uscendo, ma non capisco chi è. Chi è? Avanti. Attenzione, sto uscendo. Sì, stai uscendo. Santiago 7. Dai, Giulio, senti. Sono, sentito. Non lo sento. Chi è Marco? Chi è? Allora, la persona che è entrata, chiedono chi è, nominativo, perché non ti sentono gli altri, credo. E vabbè, vai a chiedere il nominativo e, e non riprende. Allora, buon viaggio, non so. Sempre così, vai Giulio. Vabbè, lasciamo perdere, dai, fregatene. O si presenta bene, si fa sentire, se no non ci interessa. E qui a un certo punto si fa perdere anche la pazienza. Ok, avanti, mi si dava il certino che è quello il telefono. È quello, dai, già è quello. E dunque, è partito pure, è partito il coso. Il messaggio è partito, il tuo che è mandato addirittura. Boh, giù. Non mi risulta niente, quindi se vuoi te lo ridò il numero di telefono, io problemi non ne ho assolutamente. Aspetta che te lo dico io allora, se è quello, perché sono sicuro che è quello, vediamo un po', scusa un attimo. Vai Franco, lo prendi tanto. Ehi capo, dai. Ciao Marco. E chi era quello Marco? Dimmi Fra, che ero lontano. Ho detto chi era quello lì che stava sotto di me? No, non l'ha detto, non lo so. A parte che c'ho un po' di corrente elettrico, no? Un po' di corrente elettrico. Ho chiesto il nominativo, ho detto dovrebbero sapere, ma non ha risposto. Vabbè. Basta anche un nominativo di fantasia, non stiamo chiedendo nome, cognome, codice fiscale. E così ieri, è entrato uno, come arrivo, gli chiedi il nome, si è entrato tutto. Noi non mangiamo nessuno, non ancora almeno. E vabbè, vuol dire che non si vuole bilanciare più di tanto, non è niente, proviamoci. Avanti Gianni. Eia. Dai, aspettiamo Marco che finisca le pulizie. Comunque, confermo ancora che non ho ricevuto nessun messaggio, forse non il numero non è esatto. Comunque, sì, l'amico che voleva entrare l'ho sentito basso, ma era, insomma, riuscivo a sentirlo, dai, comunque. Chissà, Claudio e Antonello saranno arrivati alle mani a questo punto, vista la loro assenza al canale. Cosa ne dici giù? Avanti. Adesso lo fanno avviare a Claudio perché stava provando la radio e lui lo insisteva continuamente a usare quello quando stava facendo male, nonostante che gli si diceva che non andava bene. Allora, l'inizio è 349. Finale 68, quello è. Sì, confermo. E allora come mai non arriva? Boh, a meno che non ci sia segnale qua in questo momento, sarà per quello, non lo so. Giulio, un attimino, due minuti mi allontano. Va bene, d'accordo, siamo qua. Ok, avanti Marco. Eia, sono qua, sto andando avanti e indietro alla cucina, dai. No, ieri non mi veniva un termine, no, quando uno è ai limiti della comprensibilità, no, come segnale, no. Cioè senti che c'è la portante ma non riesci a capirlo, non mi veniva in termine, mi pare sia intelligibilità, così si dice, no? Proprio quando riesci a capire quello che dice è quando proprio senti una modulazione ma non è intelligibile, così è. Sì, infatti, è così. Sì, Gianni, comunque il tuo numero qua, e poi me lo segna che sei su WhatsApp anche, me lo segna qua, dunque, non capisco come mai. Guarda, se rientra Claudio, magari lo facciamo mandare da lui, ti manda il mio contatto Claudio, perché io il contatto di Claudio ce l'ho. quindi magari appena rientra magari te chiediamo la cortesia se, te, se lo può girare lui, capito? Quindi così almeno rendiamo le cose un po' più facili. Ok, avanti giù. Ok, va bene, va, va bene. Su WhatsApp una frase qualsiasi, così scriviti il mio numero, te lo mando io adesso il mio numero, scrivi 388, stai scrivendo 490 76 99, hai scritto? K. Sì, sì, sono riuscito a scrivere. Dai, adesso c'avevo il post-it lontano, però sono riuscito a scriverlo. Poi se mi autorizzi posso ripetertelo? Sì, certo, è che proprio visto. Però devo mandare un messaggio direttamente, non conosco niente, punto e virgola, stato per dire, ciao, quello che ti piace. E quindi mi arrivo su WhatsApp e poi da mio lo mando su quello, dai. K, dai, l'ho scritto sul post-it, appena riesco a raggiungere il telefono, che non ce l'ho molto vicino, quindi adesso ce l'ho in mano, vabbè, non è arrivato assolutamente nulla, magari c'è qualche cifra sbagliata nel numero che hai tu, nel mio numero che hai tu, quindi vabbè dai, già appena 10 minuti e aggiustiamo tutto con la storia del telefono. Quelli sono spariti. Doppio room, ah è vero, doppio room sta lavorando, ha ripreso lavoro, quindi non è dei nostri. E niente, dai, Daniele non si sente, insomma, oggi poca roba, dai, avanti giù. Ok, quelli stanno facendo prove di trasmissione e magari ha fatto arrabbiare Claudio, ha chiuso. No, non credo, adesso lo sta instradando bene, lo sta instradando come dovrebbe fare, perché sicuramente c'era qualche cosa in quel 140, che perché il 140 esce bene, anche con Salenza, come diceva lui, deve uscire bene, anche questo esce bene, anche con le MBG4, con le MBG5, sono i gruppi che si possono adattare benissimo, non ci sono problemi. Sono degli avvenenti e con la cametta lo fate giù, senz'altro. E quello, il problema è questo. Sicuramente qualche errore c'è. Non perlomeno la radio che non funziona bene, come stava dicendo Claudio. Vabbè, avanti Marco. Marco, gira bene il sugo, giralo bene, se no ti si brucia. Mi sa che è lontano dalla radio. Quello che non riuscivo a capire è se Antonello stesse usando una radio o un baracchino. Questo non mi è sembrato di non capirlo. Non sono riuscito a capirlo. Una KF stava usando, un professionale, però 140. Un cable di 140 stava usando. Ecco quello che stavo usando. E ha abbinato un microfono della BG7, che l'ha abbinato lì. Però quel microfono che lui ha piazzato deve funzionare bene su 140. La radio professionale, come 440 quasi. Un po' inferiore, però è così, sai. E invece non funzionava bene. Non so. Allora, o è difettosa la radio, o perlomeno lui ha fatto qualche errore per collegare il microfono. Ecco qual è il discorso. Perciò, vediamo se riprende Marco. Marco? Marco lo riprende. Riprendo io, sono rientrato. Sai cos'è? La gente quando hanno una radio, tu sei che stai provando, stai aggiustando, stai facendo, ma esci sempre male, lascia una cosa, una volta che esci bene lascialo stare. No, perdonatemi, io non ce la faccio più, ma mi sta venendo l'esaurimento. Basta. Ma guarda che ti sei spostato, se no vai anche a lui l'esaurimento. Poi alla fine è concluso qualcosa, avete? No, sta sempre provando, l'ho lasciato lì, non posso stare tutta la sera in Kivio. Cioè, mi sto sentendo male, mi sto nervosendo. Allora lascia perdere, dai. Anche lui però non dovrebbe essere così ostinato a continuare. Continuare così, non va bene. Se dovrebbe rivedere tutto da capo, dovrebbe rivedere con più calma. Adesso potrebbe anche mettere un malattio qualunque che già ne ha, e fare questo con lui. Invece no, continua a chiedere controlli. Vabbè, cosa vuol dire? Controlli andiamo volentieri e sia ben chiaro, questo non c'è problema. Ma se ci stiamo dicendo che non va bene, vuol dire che non va bene. Rivedi tutto dall'inizio fino a dove c'è il difetto e poi così almeno risolvi il problema, niente di più. Va bene, avanti Gianni. Eia. Volevo chiedere una cortesia a Claudio, visto che avevamo un problema col mio contatto telefonico. Claudio, faresti la cortesia di inviare il mio numero di telefono, il mio contatto a Giulio? Perché a quanto pare Giulio forse non ha il mio numero esatto, quindi se mi fa la cortesia di inviargli il contatto, così controlla, perché a quanto pare lui dice che mi ha mandato dei messaggi, però io non ho ricevuto niente, quindi se mi fa la cortesia di mandargli il mio contatto, così almeno controlla se è tutto a posto. Ok, grazie. Io il numero di telefono lo posso mandare, se è giusto. Poi il contatto WhatsApp ce lo deve fare lui, mica lo posso mandare dal mio il contatto WhatsApp. Ti mando il numero di telefono e lui poi tira fuori il contatto WhatsApp, capito? No, è duro, Giulio, è duro. Avevo attaccato l'ecco, cioè mi sta venendo mal di testa. Quella radio non va bene, quindi la biglia la dovrò abbandonare, non ti sta tutta la gira tu Candy e Fendi, cosa devi toccare? Non sono radio da toccare, ecco, gli ho detto, me la porti qua domani mattina, io l'unica prova che ti posso fare, giusto per farti capire, le attacco il mio MC60, se col mio MC60 la radio risponde alle mie normative, no? Così, come sto modulando adesso, la radio è a posto, il microfono non va bene. Se la radio esce male anche col mio MC60, allora ieta tira, la pazzia. Vabbè, lui continua a insistere, cosa vuol dire? Vabbè, stasera diciamo che non è in forma ancora, no? Non è in forma. Già si riprende, quando sarà più in forma ce la farà sentire bene questa radio. Al momento non c'è riuscito, piano ci riuscirà. Vediamo se rientra Marco, che stava preparando la cena. Marco, Bruno Prisco ti sei bruciato. No, la batteria se l'è fondata. Come è possibile? Né casa né l'ara ne posso fare che ti giovano io. Vediamo, c'era anche Tino nel 5, gli ha detto anche Tino, vediamo se si è spostato qua. Buccolo! Vabbè, dai. Ma stava a mettergli... voleva modulare come si deve, un MC60 è una via normale, no? Andrà via. Sì, bello che lui non ne ha MC60, non ne ha neanche il padrone quella radio, capito? C'era anche Tino sul 5, Tino qua sì, forse ancora lì, aspetti sto mandando il coso, di eccolo qua, aspetti mando il numero Giulio. Tino, io lo flutter non lo sento, probabilmente avete sentito lo flutter di Tino poc'anzi, se era sul 5, ecco qual era la persona che magari sembrava che sbarcasse qua, invece magari era sul canale 5, Gianni, probabilmente era quello che sentivi. Era sul 5 stavano controllo anche lui, però c'è niente da fare. Adesso ti mando il numero di Gianni Ubrofetta o Giulio. Ok, d'accordo, grazie. Sto mangiando. Ehi. Sì, quindi se l'hai facciato la bandita. Che andiamo a mangiare, non si può disturbare. A 4 ganasce fa niente, banco. Poi non vedo niente, ti dici, poco ma niente, non abbiamo fame noi ancora. Tu immagina solo una cosa, fra lui a quest'ora pranzo, no? Lui dice che è sempre pranzo, ma lui pranzo evidentemente ogni 24 ore, no? Allora in modo fagliamo andiamo a la ghietta qui, No, adesso sta cenando, non sta, Ischia, a quest'ora si cena. Ah, lui sta pranzando, lui non pranza mai, lui pranza a quest'ora. Sì, sì, sto pranzando. Vabbè, allora cena domani mattina alle 6. No, mezzanotte e mezza. Ma una cosa frugale, mi, una cotoletta di pollo, una cosa simbolica, mi, per completare, non è che mi faccio primo o secondo. Poi ricorda fra che io alla fine faccio piatto unico, cioè adesso sto mangiando un piatto di pasta, erano 100 grammi da asciutta, no? Poi si gonfia la pasta, no? Però poi, boh, non mangio altro, frutta, posso mangiare una banana, una mela. E poi boh, mica faccio primo, secondo, frutta, verdura, cioè verdura, frutta, no, non ce la faccio. Dai, a dopo. Eia. Vabbè, allora già non hai mangi tanto, dai, mangi leggero, mangi, non è tanto. Va bene, avanti giù. Ok. Strano però, sai, il numero è uguale, è perfetto. Grazie comunque, sì. Cosa vuoi dire? Tu mangi la chiusura. Almeno cosa buono stai mangiando, Marco, dai, faccelo sapere, dai. Non è che vogliamo sapere fatti tuoi, però tu dovresti anche invitare qualche volta lui, no? Da sempre da solo mangi. Vabbè. Graziano era uno spettacolo, come ti spiegava tutto quello che faceva, che cucinava, no? Ebbene, non per niente il soprannome lo chef, no? No, è una banale pasta asciutta con un sugo alle olive della Barilla, peraltro pronto, sugo alle olive, nere e rosse, mai di un buono. Giusto per fare in fretta, mi, se no si poteva fare anche nel pentolino, farlo sul momento il sugo. Cosa vi volevo dire? Oh, fra, che una volta io mangiavo di più, ma mi era venuta una pancia, sembravo incinta di 6 mesi. Proprio dovevo usare le bretelle, non potevo più usare, perché mangiavo, poi dolce a furia dura, mangiavo tutte le ore. Poi un po' mi si è tutto ridimensionato e adesso praticamente faccio piccoli pasti, diciamo, poco ma spesso. Non riesco a riempirmi tutto in una volta, anzi non riesco a mangiare un bel, capito? Vabbè, i dolci li ho un po' mollati, perché prima veramente tra cioccolato e dolci era una, secondo me era qualcosa anche legato a quella, vabbè, non lo so, era proprio una sudditanza lì dai dolci, una dipendenza vera e propria, in poche parole, come può essere il fumatore o il bevitore. Adesso, dopo quell'operazione, mi sono dato un freno, quindi quando piglio il caffè al bar, prima ne mettevo 2 di zucchero, adesso ne metto 1, nel cappuccino ne mettevo 4, adesso ne metto solo 2, mi sono dato una regolata, perché se no mi ha detto il medico che... Oh, scusate un secondo, dai, che io scendo a portare il cane. Se ci siete ci sentiamo dopo, se no vi auguro buona cena a tutti, ok? Vado, a dopo, vai giù. Ok, qua, ciao qua. Adesso se ne vediamo, ci sentiamo domani, dai. E vediamo un po' se ci siamo ancora. Se ci siamo già ci sentono, non è un problema. Avanti Franco per salutare Claudio. Ciao Claudio, buona passeggiata, ce la riascoltiamo. Alla prossima, oppure più tardi. Ciao. Avanti Marco. Ciao Claudio. Quello nella foto del profilo è il cucciuccio, quel demonio di cane, no? Di suo genero, come si dice? Sì. Sì, la testa del cane di Mariolino, sì. Anche perché nell'inquadratura ci entrerà solo la testa, a prenderlo tutto ci vuole il gran angolare. Dai, buona passeggiata. Ecco. Gappa, dai. Ciao a tutti, se ci siete a dopo. Vai, avanti Gianni. Mi avete posteggiato un attimo, attenzione, per Giulio, messaggio per Giulio, avevo WhatsApp impallato, adesso ho ripristinato il telefono, mi sono arrivati messaggi di, insomma, mi sono arrivate delle immagini, il numero, il numero, del, mm, il, numero di telefono a 036 finale, lo confermi? Sì, guarda che ti ho mandato anche... Sì. Ah, è il mio? Il mio numero finale? Sì, puoi fare quello anche, sì. Puoi fare anche quello, va bene. 32. Guarda, le ultime tre cifre sono 036. Nell'immagine del profilo c'è una macchina d'epoca. Confermi? Puoi mandare anche lì, va bene lo stesso, sì. Ok, grazie. Avanti, avanti fra. Capo. Più basso lo sento adesso a Gianni, molto molto più basso, mezzo al QRM, sto sollevando un pochettino il QRM, e Giulio? Ah, io lo sento bene ugualmente, come prima, come tutta la sera, quando iniziato. Guarda, no, ogni tanto comunque c'è un aumento di QRM, quello è vero, però già lo sento bene, non ci sono problemi. Avanti Marco, io bevendo stai anche, non ti a mangiare. 32. Solo acqua, avanti il break. Sì. Avanti il break. Spostati un po'. Fermo così. Un po', cos'è? Fermo adesso, fermo già va bene così. Avanti il break, chi è? C'è qualcuno che non fa parte di questa ruota, evidentemente. Forse non si è accorto che qua è occupato in questo canale. Avanti l'amico, vuoi entrare su questo canale? Sì, che li sento parlare, li sto sentendo parlare adesso. Ma cosa chi è questo? Boh, io non ho mai sentito questa modulazione. Avanti, chi è? Che si sente? Spostati un po' a destra, un po' a destra già va bene. Oh, quel canale è occupato, il canale è occupato, sta parlando altra gente. Spostati a destra, spostati a sinistra. Le triangolazioni si offendemi. Senta, dove l'ho sentito, boh? 54 e 86, arrivano al 30 qua. Il canale è occupato, c'è un QSO, gentilmente, ok? Se tu te rimane leggi, intendi? Tiralo, fino in fondo lo devi tirare. Ma te ne vuoi andare da questo canale o vuoi rimanere qua con lui? È utile che continui. 32, 34, stai dando i numeri. Ma poi cosa ti rende? Non conto se ti rende a Uggio. Non ci ho compreso. 32, 64, 56. Ma l'educazione te l'hanno insegnata che questo canale è occupato e sta parlando gente. E non mi dire che non mi senti perché sei 9 più 30 qua. Quindi fai la bravo. Prima che mi ci gira nei bibiritri. Uno con qualche rumotto via a cosa, a piazzare segni o qua. Arrivare così forte a testa lì in quella zona. Perché qui mangi abbastanza colombe. Sicuramente, ma se lui arriva a 9.30 qua, figurati come li arrivano lì io. Allora, se il canale è occupato e c'è gente che sta parlando, per educazione ti sposti, ce ne sono altre 40. Prima che mi siano avere i bibiristi, allora giambo antenna, te la butti in alto e ti vuoi trovare, la giostra è in automatico, però. Non è possibile, ogni tanto ce n'è qualcuno che non operando. Almeno a dire, beh. Sgonfialo un pochettino, sgonfialo, sennò è troppo grande. Non mi sono accorto che il canale era occupato e niente lì, ci mancherebbe altro. Sgonfialo, t'ho detto. Tanto sei un pellegrino, a questo punto. Allora, che fa? Oh, continua a parlare e ti ha sovramodulato, ma l'italiano lo capisci, perdonami. Ti sto chiedendo gentilmente che il canale è occupato, sta parlando gente qua, ti puoi spostare sì o no? O pensi di fare il togo, il furbo, cosa vogliamo fare? Ha detto sgonfialo, sgonfialo un po'. Lunga notte confiendi. Io veramente rimango allibito, non so cosa dire, vado a portare il cane che è meglio. Perché mi si sta già salendo l'embolo e posso fare danno, Secondo me, scusate l'intrusione, secondo me qualcuno di Matterland, che c'è la giostra in questi giorni, secondo me qualcuno di Matterland. Sì, anche l'altra volta è entrato uno da Lugamper. Ma se ti sto dicendo che arriva 9.30 qua, tranne Marco, che non si capisce una cinese. Dopo che l'hai parcheggiato lo sposti da una parte e lo sposti anche più in giù, capito? E però sgonfiala adesso se no non ce la fa. No, ma ma magari ha messo lo squelch per lavorare solo in locale, cioè basta mettere lo squelch a manetta e lui sente solo chi c'ha a pochi metri, lì a 100 metri. Non è che non è in basso, quando è in basso lo molli. Parer mio. Ma secondo te io non glielo apro lo squelch, anche se lo chiude? Ah, io Marco. Vabbè, ma tu sei lì, grazie. Ma vuoi vedere che non, adesso faccio portare il cane a mia figlia e sta accendendo l'FL2100, cambio l'antenna e non sente neanche quello che c'è vicino, vuoi vedere? Vabbè, io ti credo sulla fiducia. Vabbè. Ok, dai. Franco, riprendi. Capo, dai, abbiamo parlato insieme allora. Ho detto che secondo me qualcuno sta rompendo le scatole, non c'è nessuno vicino. Sta parlando a bambara. Guarda, l'ultimo passaggio ha sovramodulato a Marco, quindi. Ah, caspita! E allora dov'è? A Claudio Fondoscala, a me mi passa. Bubu. Aspetta un attimo, Mario, girati. Allora, l'italiano, l'hai capito che ti devi spostare dal canale 10 o no? No, ma secondo me è fatto apposta, dai. Così per trollare. Vediamo, quando sto parlando con l'altro se lo sente. Vediamo se lo sente, che c'ho la cattivamente puntata a piazzare i segni, l'amplificatore sinistro. Vediamo un po'. Si ribassa l'italiano. Cosa ti sei bruciata? La radio con Antonio Reventi? Non rispondi più? Perché lì c'era bruciata una radio? Antonio Reventi? Passate la storia, credo. Perdonate se sto, se ho aumentato, ma voglio capire se la realtà è quella. Antonio è venuto a prendermi sotto casa quando c'aveva il taxi verde, c'era proprio una Renault 20 gialla. E io tanto quando sei sotto chiamami che scendo. Avevo il TL922 inserito perché era in banda laterale e poi l'ho messo la M, la radio, senza, perché quello non va in automatico, il TL922 da che c'avevo circa 700-800 volt. E mi ha detto, mi sono bisotto, io schiaccio, ha detto, sto arrivando. E niente, ho spento tutto e sono sceso giù. Quando sono sceso giù l'ho visto sotto l'oserile, un fiago di bruciato, ho detto, ma cosa hai combinato? Sai cosa ti sei inserito, ti stai incendiando? Alzo giù, come te l'hai detto, sto scendendo, ha fatto la radio, boom, è sceso la rasura. Sei un ecoterrorista, sì. Cazzo, ti parlo di 20 anni fa, quando a volte il purgatorio ce lo si WhatsApp a in pensione, ogni tanto glielo ricordo, è una massa di nevaria, però gli ho dato un'altra io, è la verità, ne avevo un'altra, il baracchino gli avevo dato perché lui lo usava per lavoro, quindi se l'aveva messo in macchina, capito? Avanti Giulio, non si sente più l'amico? Te l'ho gonfiato bene il palloncino? No, è morto, non c'è più. Ormai è cadavere, dunque non c'è più niente da dire. Ci siamo già divertiti. Avanti Gianni. Eia. Sì, da queste parti è sparito, non si sente più niente, quindi si è volatilizzato nell'etere. Perché ha detto che stava gonfiando, gonfia, sgonfia un po', invece io ho gonfiato un po', no, la potenza, e quindi si deve essere scoppiato il palloncino, vero Fra? Ma che? Questi cazzo, quando mai non vedo, non sentono che c'è la gente? Lascia, magari che non ascoltava a me, ma a voi di vicino sì. A voi di vicino sì, e io penso che forse ne sei trovato davvero un palloncino alla giura. C'ho la monobanda dei 10 metri puntata a piazzare segni con... e quasi 500, vediamo se ne passiamo a chi. Oh, poi ci sono anche baracchini con subtoni, proprio per non avere interferenze, cioè passa chi ha il subtono. Ma non credo sia il caso, dai, quello, non credo. Bisogna anche saperli usare i subtoni. Allora io adesso vado a portare il cane, se torno e si è sgonfiato il nuovo palloncino, già glielo gonfio io. Vai Giulio. Perché? A meno che non sia sia sordo. Allora non si sentiva, ma non credo che sia sordo, perché stavo parlando con altre persone, che lui sa là, che io tra l'altro non sentivo l'altro, e evidentemente già non era sordo, ma va che lei, già l'è passata la mania. Già avevo il telefonino in mano, sto guardando le immagini che mi ha mandato, grazie comunque. Dopo collego il telefono al computer, me le scarico e le guardo meglio. Ok, ok, le immagini ricevute, quindi va benissimo così, grazie. Avanti Marco E. Si sono fatte le 8, io mi guarderei un telegiornale, dai, oggi non ho guardato niente. Poi ci sentiamo quando capita, ok? Dai, ciao Gianni, Giulio, Franco, Claudio, tutti quelli all'ascolto. Dai, sentiamo domani. Guarda che sta giornale non c'è più niente, c'è solo tutte queste cazzate di coso, di reddito di cittadinanza e basta, non c'è più altro. Avanti Giulio, ciao comunque Marco. Ok, sì, beh certo. Ma a parte questo, no, ma c'era anche, oggi c'era anche il voto del Senato per vedere se Salvini sarebbe dovuto essere processato o meno, invece sembra di no, per cui va bene. Però è strano che uno debba essere processato solo perché cerca di difendere la propria nazione, un vicepresidente, ragazzi, non è possibile, un ministro, non è possibile che alle volte si sentono delle cose assurde in questa Italia, ragazzi. Siamo lo zimbello del mondo intero, ma soprattutto dell'Europa, di Italia, non è possibile. Ma comunque, Marco, mangiato hai? Sì. No, ma per dire, persino Salvini ha detto che quella storia della ONG, adesso io non so se è corretto o meno, che lui dice comunque non lascia certo in mare donne e bambini, no? Vabbè, gli sbarchi, poi chi è regolare, chi non è regolare si vedrà. Sta cercando di regolamentare un po', non è che arrivano sbarchi a centinaia, migliaia, così, e poi li vedi, la maggior parte ogni volta c'è Brumotti, fa vedere lì una lunga schiera di nordafricani tutti a spacciare. Magari li arrestano la mattina, la sera sono di nuovo lì a spacciare perché in attesa di giudizio li lasciano fuori, e poi sovraffollamento, e c'è un'infinità di motivi, di ragioni. Cioè, o uno viene a lavorare, a fare un lavoro vero, se no non si fa niente. Cioè, abbiamo già gli spacciatori nostri, non ce ne servono altri. Ci sono già gli spacciatori italiani, capito? Ho capito. La politica è sempre politica. Ad ogni modo io tifo per Salvini. Non ho mai votato per la Lega e non avevo mai votato. Però questa volta se c'è da votare voto proprio per la Lega. Non per niente, perché almeno se non altro è coerente con quello che dice. Anche se poi c'è l'altro, per me l'altro è un ministro che non vale quattro lire. Cui quello lui mi mette sempre il bastone fra le ruote, però quello che dice lui non lo mantiene, non c'è suo problema, dobbiamo pensare che loro hanno stabilito un programma, lo stabiliscono prima delle elezioni e hanno promesso quello che hanno promesso e la gente ha votato proprio per quel motivo lì, perché ha sentito che le promesse sono delle cose interessanti, delle decisioni interessanti. Poi però l'altro ministro, che non capisco per quale motivo debba comandare in due, non lo so io, ma anche domande visto del 5 Stelle, io ce l'ho arrestato un'altra domanda a Roma di 5 Stelle, soprattutto il presidente del comune di Cagliari, di Roma, che sa che traffico di soldi che sta preso, e poi ce l'hanno arrestato, lui è anche il 3 o 4, sempre di 5 Stelle, per cui non mi immaginavo. comunque la politica è sempre stata la bestia nera dell'umanità in tutto il mondo, non solo la bestia in Italia, in tutto il mondo. Vabbè, dai, ne prendi Franco. Ecco, già è vero quello, vabbè, sono stato arrestare, Mauro Carriscian, quando domani ne pura. Domani fanno una direttissima, gli fanno, e domani viene pure a Dora, perché lo Stato italiano non condanna la gente, la premia, quella dei delinquenti, li privilegia, non li condanneggia. Invece tu vai a rubare perché c'hai fame, a rubare una mela, a rubare un pezzo di pane e ti arrestano. E non ti stia a privilegiare mai. Invece chi ruba, chi ammazza proprio veramente, quelli sono premiati. Sì, infatti è così, infatti è proprio così. Come quel commerciante che era stato rapinato 92 volte, non la buttano, 92 volte. Sì, che a un certo momento cosa è successo? È successo che aveva sparato e ferito il delinquente. Beh, a lui l'hanno condannato 5-6 anni di carcere e il delinquente in giro, a passeggio, ma non è possibile, perché uno difende le proprie cose, ragazzi, e non può farlo. Ma adesso vediamo questa nuova legge, sembra che ci sia il diritto alla difesa, vediamo un po' che cosa succede. Va bene, avanti Gianni. Eia. Giulio, ti ho mandato su WhatsApp la foto del mio baracchino. Ho visto che ce l'avevi in memoria e te l'ho mandata. Vabbè, visto che c'è il microfono in mano, ragazzi, io vi devo lasciare per stasera. Grazie al QSO. Un saluto a Franco, Marco, a te Giulio, a Claudio, Antonello che è sparito. Insomma, un saluto a tutta la ruota. Grazie mille della conversazione e ci aggiorniamo, così adesso ne approfitto, mi scarico le fotografie e vedo un attimino queste cose sull'antenna. Grazie mille e alle prossime, ok, buona serata a tutti. Ok, ciao Gianni, allora ricordati, scrivi sulla tastiera, scrivi, come ti ho detto, costruzione, antenna GM, spiegazione, aggiungi quella parola anche, e vedrai che esce proprio quello, che ti spiega per scrivere per segno come ti deve fare. Poi ce ne sono altre, da poi puoi scrivere anche altre cose, che poi di conseguenza già ti vengono dietro tutti gli altri siti anche, relativi a antenne, eccetera. Comunque tu scrivi quella e vedrai, fai quella, dammi retta perché quella va bene. Bravo, ciao già, grazie per la chiacchierata, domani ci sentiamo. Avanti Gianni, avanti Franco. Ehi, ciao Gianni, buona proseguo di serata, buon tutto, dai, ce la riascoltiamo le prossime. Avanti Marco. Marco sta bevendo adesso, prima ha mangiato, adesso sta bevendo, e dunque si è sentato. Claudio non è ancora rientrato, che è andato in giro a portare il cane, perché siamo rimasti soli a quanto sembra, Opa. Ehi, capo, ehi, vabbè, non è così grave. Beh, certo, ci mancherebbe. Sì, sì. Andrai. Sì, io sto guardando il baracchino di Gianni. Sto guardando, è un vecchio vintage. Comunque questi vanno bene, sono apparecchi che vanno bene questi. Sono semplicissimi, ma funzionano bene, hanno sempre funzionato bene. Questo è sicuramente quadrato. È un Andrai, un vintage, dopo. Quelli a quarti, già me li ricordo, c'avevo a quarti, c'avevo tutto quanto, tutto a quarti era quello lì, il faccio 2030. Sì, beh certo, ne ho ancora qualcuno io a quarti, certo, ne ho di più, devo dire che ho anche un bel po' di quarti anche, relativi ai vari canali, perché allora ti ricordi quando ero 23 canali, allora per avere più canali cambiavamo i quarti degli anni che furono. Sì, e io li avevo cambiati tutti a quella pace, li avevo cambiati. Avevo messo più canali, li avevo messo. Mi avevo dato un amico, mi avevo dato, dice piazza questo, così, quelli con i là metti qui, tutti in serie. E giù, tu avevi sempre più canali. Infatti. infatti. Ma allora c'era quella voglia di fare, cambiare, mentre invece adesso ormai ci sono baracchini a 400 canali, ormai non ci interessano più queste cose. Va bene, dai. Sto trattando una fotografia. Sì, ecco, e adesso ci sono i baracchini. E 40 canali ne ho due sopra, anzi no, uno, due ne ho due ne ho sopra, tutto il resto, gli altri tre sono tutti con canali un bel, a parte il forno che c'è 120 canali. Sì, e vabbè, io ne ho, vabbè, poi c'è questa sintonia continua che è tutto, sì che se per me ci sono. Già ne ho anche a 40 canali, ne ho anche a 23 canali, e ne ho anche a 23 canali modificati anche, per avere più canali, e già ne ho, e ne ho anche uno valvolare, che costa 25B, vecchissimo baracchino di allora, vintage, là, non vecchissimo nel senso vintage, per cui, e va bene, quelli andavano molto bene lo stesso. E un giorno sono entrato lì da Coso, lì c'era la rotonda all'entrata di Sassari, da qua, e ho visto che c'era uno che vendeva usato lì, vendeva, no? Che c'era il cancello, si scendeva giù e si entrava dentro, e avevo visto un coso, come si chiamava quello lì, il mi è fuggito, era un 23 canali della porca miseria, non mi viene adesso. Io il primissimo baracchino che ho avuto aveva 6 canali ed era il Pony 6 canali. Aveva il microfono, che si ascoltava dal microfono, oltre a parlarci dal microfono si ascoltava anche. Per cui, ce l'ho ancora, noi ce l'ho. Poi ne ho uno che ha addirittura 3 canali, con l'antenna di cui portate, lunga, dalla Madonna a 1,80 metro dall'antenna, a cannocchiale. Capo. Quindi sì. Uno poco a poco diceva quel nominativo di quella radio, c'aveva il nominativo proprio, ci aveva messo di quella radio, ho visto, lo volevo dire proprio in fretta, eppure andava bene lì con la canali, andava molto ma molto bene. Mi ricordo una volta me l'ho careggiato con Santo Razzero, un vecchio CB, che lui aveva il Constat 35B, che era più moderno, dopo il 25 era uscito il 35, bello, avevo una bella radio, veramente, sempre a volare. E non avevo corso con lui, ma avevo fatto una gara a chi andava più lontano, cioè come segnale, no? E avevamo chiesto a Porto Torre, a Coso, a come si chiama, vai, non lavora, a Gabriela, il Porto Torre, insieme al marito erano, e mi aveva dato un punto più alto a me rispetto a quello. Mi dava col baracchino lì, mi dava esattamente 6.8 watt, mi dava. E mentre invece quello che aveva Costanzo e Antonello, due fratelli, che lo usavano tutti e due, un po' uno, un po' l'altro, e quello gli dava 4 watt e mezzo. E dunque arrivavo a Porto Torre più forte di loro, che lui aveva il baracchino nuovo, appena comprato, mentre invece il mio era sempre un baracchino vecchio, di seconda mano, che l'avevo ottenuto, perché avevo fatto una cassa per due altoparlanti a un ragazzo, l'avevo fatto, che non aveva soldi, e in cambio ho fatto ragazzo quel baracchino. Ne hanno parlato perché mi serviva appunto per andare nelle cantine a ballare, eccetera, eccetera. E siccome non aveva soldi, allora in cambio mi ha detto, mi chiedo questo in cambio, se mi fai due casse per metterci l'altro parlante. parte, vabbè, che ne faccio due scatolette, dai, diciamo. E capo. Il toccai era, il toccai. Ed era nuovo era. Lo trovavano 80 euro. Un momento sono passato, lo c'avevo subito in tasca, ho detto, domani il saldo me lo prendo. Sono salito e non c'era più. Sì, e beh, allora in quel periodo il toccai era uno dei migliori, andava benissimo. Ma io il toccai ho anche il 50-24, che poi c'è anche il, diciamo, il gemello, quello dello Zodiac, 50-36 se non sbaglio, ma in pratica è il 50-24 stesso. Ecco, era bello, era bello, nuovo. Infatti quando lui mi ha detto, dice, questo era il mio, era, me lo sto vendendo, intanto non ne faccio niente. Ha detto, non mi ha detto niente, ne lasciamelo niente. L'ho preso io, me ne sono andato, l'indomani sono salito e non c'era più. Ma va, io non potevo dire a bloccarlo. Vabbè, pazienza. Ce ne abbiamo avuto tante altre poi. Adesso, ma nemmeno me ne ricordo più, poi ho il Galaxy 2, o il, l'altro come si chiama, ma è precisa in realtà come pare che sia, è più o meno, ma non me lo ricordo più come si chiama, President 789, Sommercamp, 789 era Sommercamp, anche, e andiamo a divertirsi, dai. Capo. No, io della verità, da quando ho iniziato di nuovo, barattini proprio, poco niente, non ne ho comprato, l'unico che avevo preso era il presidente, e il, come si chiama? Il Connex, e cosa? Un come FM 546X. Poi non ho comprato altro niente. Gli altri, di solito, mi sono passato in mano almeno 4 o 5 di questi, di 680, o 440, e basta. Ok, invece, un attimino, perché entro un attimo, sono in bagno, un attimino. Ecco. Siete ancora qua? Sì, noi ci siamo. E lì c'è? Allora, ho sentito Giulio, ho fatto un passaggio, poi sto vagando da... Sì, alla fine il telegiornale, tre quarti politica, poi le solite notizie anche vecchie di cronaca. Se non ce ne fossero sarebbe meglio di cronaca nera, però purtroppo ci sono. È così. Poi fra un po' esco, mi vengono a prendere, facciamo un giro, un caffettino, eccetera eccetera. Per fortuna mi fra, ti ricordi che mi lamentavo giorni fa che non dormivo la notte, e dopo di giorni invece che sto riuscendo a dormire, certo non da presto perché io ho gli orari miei, però poi dormo, ma dormo a sasso, meno male, è passato. E il motivo qual è? Nessuno, non ho cambiato niente nel modo di fare, nel modo di, né medicine né nulla. Vabbè, magari, e poi c'è anche il tempo che ha, dipende, che ci sono i giorni che ti trovi un po' più stanco, un giorno che non hai voglia neanche di dormire, hai voglia di uscire, e quello lì, magari è il tempo, come ti viene la giornata, no? Eia. Sì, ci sono giorni molto più attivi dove esco dalla mattina, certo non prestissimo, non ho limitatamente i miei orari, ma poi commissioni la mattina, la sera, pomeriggio, sono giornate più costruttive. Alcune giornate proprio invece sono fisicamente a terra. Va bene, adesso vediamo gli sviluppi di questa nuova, di questo nuovo piano terapeutico, se daranno i loro frutti oppure no. Sicuramente danno frutti, poi se non danno frutti vuol dire che la terapia non è tanto buona. E poi è tutta roba per pareggiare il livello ormonale, non è che sia roba dopante, serve a pareggiare il livello ormonale in modo che non sia lì sotto, no? Tiroide, surrenali, eccetera, eccetera. Tutto lì. Bene, vediamo se è rientrato Giulio. Sì, sono rientrato. E va bene. Purtroppo ce ne sono tutti i giorni quelle cose o matto. Soprattutto su quando si incomincia ad avere una certa età. Eia. È bello avere 20 anni, ah, 18-20 anni, mamma di turchi. Ah. Vabbè, così è la vita. Quanti anni hai, Marco? 47, ma vorrei averne 18. Chi non vorrebbe essere eternamente 18enne, ah? O anche meno. O giù. Almeno a 40 anni potresti scendere? Glielo credo, solo che a comune non mi possono vedere. Sono andato per vedere se mi scontavano un po' di anni. Tu già l'avrà, dici. Peggio per te, dice che te l'hai consumato prima. Non me ne scalano niente, no. È come il medico, dice... Ma là, dice, ma lui beve, certo che beve. E lui non ha visto cosa è successo perché beveva troppo. E te l'hai bevuto tutto insieme, te l'hai bevuto. E tu dici, non puoi bere più. E beh, più entrato è... No. E allora dice, incendiate l'antenna. Ma c'è che vengono una cagnara, vai, che vengono un buco. Ah, cioè, ma uno deve usare le maniere forti per farsi capire, poi non riesce a comprendere. Ma siccome c'ho da tre elementi, la piccola che è puntata proprio a piazza dei segni, no? L'hai visto l'incremento da te, perché prende una parte anche di te, e se avessi ribassato a chi? Sì, già, infatti già aumentata anche qua. Figurati, la polarizzazione orizzontale e tu verticale, ma già di un come a pigliare due edo, ti pari due. Da 7 mi si è arrivato a 9, aiutato, batti reni. Quella è una parte perché non è che è proprio sopra di te, è proprio sul piazzale dei segni, quindi però un pezzo della coda prende anche a te, l'incremento c'è stato, ma c'è già da Edo, ma dimmi tu, cioè senti che sta parlando gente e ti metti a parlare, gonfia il palloncino, sgonfia, lo tirano, 32, 66, 48, Io ho detto, stanno facendo le triangolazioni, me. Io dirò io la triangolazione, se non ti preoccupare. No, l'angolazione della radio, o dei siti. Andate giù. Ok. Ti vedi che lei... L'hai pigliato sul tuo mano, l'ha pigliato quello lì, qua. Ma è sicuramente lì, qualche campionista magari che stava parlando con l'altro campionista, era per quello. Era sordo, non sentiva bene, era sordo, ma gliel'ha intesa però. E penso che l'abbia intesa blu, però no, devono essere quelle della giostra, sicuramente. Ma non hai fatto un giro a vedere fumo in qualche luogo? Boh, portato il cane, non ne ho visto di fumo. Non mi fare ridere. Ma cioè, arrivare a questi livelli, ma dimmi tu, cioè te lo chiedono per cortesia, guarda il canale occupato, guarda il canale occupato, e non ti posso, allora ti posso io, ti chiudo le pinte, ma di tesci. Anche se poi rido, mi si solitica la bicicca, devo andare avanti e indietro in bagno. Ma penso che gli sia passata quella voglia di intromettersi in un canale occupato. Sicuramente gli è passata la voglia. Giulio, non era da tanto se non facevo questa operazione, ma quando ci vogliono bisogna farla, capito? Fatto che è sempre tutto collegato. Vabbè, comunque. Ma invece Antonello l'abbiamo perso, l'abbiamo recuperato, cosa è successo? Guarda, quando sei andato da questo canale qua non ti ho sentito. Da quando mi siete portati per il contorno, allora dovrebbe venire da un momento che sono preso finito. No, io l'ho mollato di continuo e sono venuto qua al 10 perché tanto non riuscivo a capire, non mi ascolta e non riesco a dirle ciò che penso io, cioè mi esprimo abbastanza correttamente, forse tu non mi capisci, è inutile che facciamo le prove, ti dico col microfono va bene, la partito, la prova che puoi fare, mi porti la radio, io te la provo con l'M60 perché il microfono non ne do più a nessuno, ok? E ti faccio la prova, se io ritengo che la radio sta uscendo bene come la mia, con l'M60 allora è a posto, se no la radio è da controllare perché non va bene. E in quale canale sono? Io l'avevo lasciato nel canale 5. Riesci a vedere? Vabbè, comunque lui si ostinava a continuare a provare, a farla, a toccare, però io sicuramente è una brava persona, non ci sono dubbi, questo non ne dubito minimamente. Però io di quanti anni è che lo conosco per questa? 45 anni, 47 anni, boh, non lo so di preciso, comunque tantissimi anni. E raramente l'ho sentito uscire bene, ma veramente poche volte. Poi quando sta modulando, magari riesce a azzeccare tutto la radio giusta, il microfono giusto, dopo un po' cambia totalmente, ma non è possibile, diciamo. Possibile, proprio da lui queste cose non me le dovrei proprio aspettare, visto considerato che lui bene o male è qualche cosa di tecnica, se intende, ma no, da mai vecchia, e mi dispiace, perché Antonio non è una brava persona, la verità, però non lo so, ma hai ragione tu, se ti batti di là il dubbio è morto. Non ci sono più, no? Allora ha mollato. No, vabbè, cioè, come ti dici, Sassarese, no? Perdi i caffi, a me invece mi si è bibilitri e allora mollo. Ho detto, non ti sento, non ci capisco niente, ciao, me ne sto andando a 10, sono andato a 10, mi dispiace o no? Ma poi c'è stata tutta la gira, io sono entrato a farmi una chiacchierata. Se poi facciamo la prova mi sta bene, ma se non ci capiamo allora la prova diventa un po' così, capito? E quindi ho buttato la spugna. Vabbè, adesso mi rimetto in sesto con il mio pigiamino e poi ce ne andiamo a cenare. Sento un bel profumino. Oh raga, c'è un freddo fuori, ma freddo barò. Beh, signori belli, grazie per la chiacchierata, avevo fatto il rancio. Dunque, io avevo fatto l'uomo nel rancio, ci sentiamo. Ciao, ciao Franco, Marco, tutti quanti quelli che stanno ascoltando. Saluto a tutti e a domani. Ascolto finale e dopodiché chiudo. Vai fra. Ok, dai. Ciao. Buona cena, buon tutto, dai, ci sentiamo a domani. Avanti Claudio. Ciao Marco Giù, salutami a Ronaldo, domani c'è la bella demo, sono convocati tutti comunque, ti volevo dire poco fa che mi sono dimenticato, sono convocati anche Di Bala, è convocato tutti comunque, tutti. Io voglio sapere la Juve con quale attacco gioca, con quale difesa gioca contro l'Empoli, non lo so, poi mi farei capire. Ciao, buona cena. Ok, ciao a tutti, ciao. Ciao Giulio, buona cena, buon tutto, a domani, ciao. Gappa gappa e gappa di rosmetro, va bene, dai, un altro passaggino, arrivo un altro passaggino e poi vado a cenare anche io, perché sono già le 9, meno, no, 9 e 25, vabbè, dai. 5 minuti e poi vado anch'io, riprendi Marco. Regà, stavo leggendo un messaggio, non ho capito niente nemmeno. Whatsapp, non Whatsapp, poi... Questa storia delle due sim, Claudio, un macello, perché magari vi mando un messaggio, non riconoscete la persona, poi non ho capito, ancora non ho stabilito qual è la sim principale e quale no. Ti dico solo che Iliad qua dentro casa sta facendo schifo, ho fatto uno speed test e sta andando a 0,16 megabit per secondo e in upload non ne parliamo. E non, cioè l'altro va a 60, mi Vodafone, vabbè ci ho ripetito da fianco, a 60 megabit al secondo, upload, download, no? Questo è proprio ai miei termini, cioè quando vado lontano da casa allora si può prendere niente da prendere bene, ma a me interessa che prenda bene dappertutto. Purtroppo Iliad sta andando con reti Wind 3 e siccome sono già una mezza... Poi si devono sobbarcare le reti Wind 3, no? Cioè ci sono gli utenti Wind, gli utenti 3 e gli utenti Iliad, quindi devono suddividere, penso, la banda per tutti. E mi sta girando male, mi sta venendo voglia di cambiare operatore, pigliare la scheda TIM, quella TIM, no, fare il cambio operatore, no? Rinuncio a Iliad e passo a TIM e Vodafone. che è la accoppiata migliore. Poi Iliad deve piacere le antenne, così fra 20 anni, quando avrai le antenne pronte, perché prima me le mettono a Roma e Milano, poi dopo anni arrivano nei piccoli centri. Io devo aspettare, sono stufo. Stavate parlando poco fa, Fabio, una cosa quando va bene bisogna lasciarla. Io sono 25 anni con la team mobile, ok, tutta la mia famiglia, non abbiamo mai cambiato, rimaniamo lì perché funziona bene, non ho mai avuto problemi, capito? Sono un po' più cari degli altri, un mese mi caricare da 15, un mese da 10, però non me ne frega niente. Il telefono funziona anche quando sono in bagno, a tutte le parti, capisci, sotto il porticato, a tutte le parti. Quindi io non cambierò mai, non me ne fotti nulla, tanto sono tutti uguali. Però la team è team. Arriva la Telecom e Telecom è la prima che appunto ha messo in funzione la team mobile, quindi gli altri sono arrivati tutti dopo. Vabbè. Detto ciò, io vi saluto perché è pronta la cena. Franco, un saluto, grazie per le due chiacchiere, come sempre, ciao Marco lì. Buon proseguo, se proseguite, se no buona cena anche a voi. E ci aggiorniamo domani, ok? Vai Franco. Ciao, vai, buona cena, buon tutto, ci sentiamo tutte le prossimine. Ciao, avanti a te Marco. Sì, ciao Claudio, io, vabbè, per me è anche una cosa, una novità, dai, una è O Mobile, che sarebbe Vodafone, l'operatore virtuale, sì, c'hai un po' la banda limitata, penso ai 60 megabit, ma 60 a vola, cioè, persino guardando un video in full HD, tanto i cellulari miei più di tanto non vanno, no, il full HD, non è rallentamenti assolutamente, non è scatti. Iliad mi sta esasperando veramente. A Platamona, vai a Platamona, alla rotonda 90 megabit per secondo, ce n'è da buttare. Poi a Milano, chi ha visto anche a 150, forse anche 200 megabit al secondo, però qua non, più di tanto non va, e poi dentro casa non prende, dentro qui non prende, anche perché non ho ripetitori nelle immediate vicinanze, sono a varie centinaia di metri. Il più vicino è al bowling, di fronte al bowling, dietro quei palazzi, c'è un ripetitore Wind 3 mi pare. Va bene, ciao Claudio, buona serata, buon tutto, ciao ciao. E quindi Franco? E quindi, qua, penso più da te perché anche io credo di pronto. Che poi io ho voluto evitare Vodafone, io potevo fare Vodafone, però il vero Vodafone, non l'operatore virtuale, che sarebbe O Mobile, H-O Mobile c'è scritto, no? Solo che lì devi pagare col conto in banca, siccome io non ho un conto mio e non voglio che vada, che detraggano roba magari anche non dovuta dal conto di mamma. Io con queste schede vado al tabacchino, quanto deve ricaricare? 5 euro, 10 euro e si rinnova l'offerta mensile. Capito? Non voglio vincoli, conti bancari, qua e là, poi ogni tot tempo rimodulazioni, certo l'alzano di 50 centesimi, 1 euro, capito? Però Vodafone sì, paghi di più, però hai velocità a tubo pieno, come si suol dire. Adesso io non so quanto sia il modem del cellulare, magari solo un 150 megabit al secondo, ma a voglia se ce n'è da, già con O Mobile vola, cioè a casa ho l'8 megabit di velocità, questa O Mobile 4G va a 60 mega, quindi ce n'è a buttarne. Attualmente sto parlando di velocità, fra, non di limite dati mensili, che sono 30 mega, gigabit al mese, no, non mi ricordo, vabbè, sto parlando solo di velocità al momento, capito, quando fai le simulazioni con speed test. Sì, ma io ti dico una cosa, io prima ero buono, e poi me ne sono andato, ma sono andato alla Wind, la Wind non mi via via, non pigliava il lungo. E c'ho questa che hai detto tu, questa HO, la U, e ti dico che è molto forte, perché io solo col telefonino riesco a far funzionare in velocità massima il mio computer, riesco a far funzionare, e mentre quella Windy era come quella candela, aspetta un po', ci stava mezz'ora a caricare, invece questa, con questa, come schiaccio, è pronto. E sente che funziona, guarda che va bene così, non la mollerò mai questa qua, perché a me mi fa anche da router il telefonino col computer grande. Eia, buono, buono. Quello l'avevo proposto a mia zia, no? Che ha Vodafone sullo smartphone. Ho detto, tu col computer portatile, la TV Wi-Fi, ti connetti all'hotspot fatto dal cellulare. Ci giriamo, niente. Su questo computer portatile non riusciamo a trovare il Wi-Fi. Mi sto pensando pure che abbia risparmiato magari 50 euro, 100 euro, e questo portatile senza il Wi-Fi. Non c'è la voce, tipo risorse dirette, nulla, non c'è questo wifi, non è attivabile. E quindi lei per modulare deve usare questa chiavettina, di quelle chiavette che si usavano vari anni fa, questa chiavettina della 3, no? C'è una SIM, la deve mettere nella USB, però c'è, così si deve pagare. L'abbonamento di casa, l'abbonamento della 3 per il portatile. Perché non so per quale motivo lei usa la chiavetta per il portatile, anche se è a casa. Più questo smartphone che non usa mai, perché alla fine lei guarda solo mappe, per il resto non ci fa nulla, nulla. Anzi, quando mando messaggi WhatsApp non li apre neanche, non li apre, cioè, come non averne quelli. Ma io c'ho anche il portatile, giù te lo faccio andare con il mio telefonino, con il wifi. E se non c'è il wifi, c'è una pennina e wifi, appena gli inserisci e puoi connetterti anche col telefonino. Sì, sì, lo so, però sai, io ho proposto, ma lei poi non ne usa, cioè alla fine lei quando è a casa usa sempre e solo il portatile con la pennina 3. Questo smartphone l'ha preso giusto perché siamo andati a Milano per guardare le mappe, le vie, le strade, no, come navigatore, però poi boh, nulla, nulla, cioè ce l'ha ma non, come che non ne avesse, dai. Non lo sfrutta, prima spende un bel di soldi, a parte che l'ha pagato a prezzo pieno, perché l'ha pagato, pensa, il P-Smart appena uscito, che è 32 giga, no, 3 giga RAM, 32 memoria. Prezzo pieno, 2,49 allo stand Vodafone, no? Adesso lo stanno dando 149, no, per dire. Va bene, più questo abbonamento qua che ogni tanto toglievano soldi dal conto, non si sapeva se, di cosa erano, se erano dovuti, tutto molto poco chiaro, amico Vodafone, tutto molto poco chiaro, fatture, non fatture, poi lì ne fa una malattia quando vede che ne sottolgono un euro e lì non sa per allora 10.000 volte tornando al centro Vodafone a chiedere con scartoffie questo l'avranno già inquadrata, credo. Dice mamma mia, rivendichissami. Diciamo che quel prezzo lì, un telefono è già un prezzo buono, già prima l'ho pagato e non è neanche da molto, ho preso un iPhone, ho pagato 2,79, l'ho pagato, c'ha 32 giga di memoria interna, e va benissimo, anzi va meglio dell'altro che c'avevo, che l'altro ogni tanto si bloccava, questo almeno non si blocca mai. Tu gli installi, gli metti dentro tutto quello che vuoi e lui viaggia parecchio. Va bene, dai Marco, io ti saluto che mi stanno chiamando laggiù. Ci sentiamo là. Se ne voglia poi salgo di nuovo. Ciao. Ehi, ciao Fra, ci sentiamo alle prossime, dai, anche domani. Ok, dai. Ciao a tutti, ci sentiamo, dai, io tanto mi sto congelando anche qua e sono in camicia. Ciao, ciao, ciao. Ehi, ciao.